si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buona domenica a tutti cari ascoltatori e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. E allora, cominciamo subito, tra poco ripercorrendo un po' la settimana, vi facciamo risentire alcuni momenti in audio di questa settimana appena trascorsa. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, poi invece dove è possibile, come sapete, cerchiamo di essere fedeli alla nostra missione, di essere il programma dell'ottimismo, un po' di buone pratiche. Di storie andate al lieto fine. 800 24 00 24, vi aspettiamo per commentare quello che sentite, per stare insieme a noi, per giocare anche con noi, perché c'è anche il oggi... personaggio della settimana che cerchiamo tutte le settimane, un personaggio che ha una notizia legata a questa settimana della quale, del quale cerchiamo l'identità. Identità. E se volete vi do subito il primo indizio. Certo che vogliamo. E è questo: il nostro personaggio sta sotto i riflettori. Sta sotto i riflettori. Pensate un attimo cosa si può nascondere da questo indizio. È un personaggio sì di primo piano, sta sotto i riflettori. Vabbè, aguzzate, come dico sempre, l'ingegno. 800 24 00 24, anche oggi due biglietti del catalogo della mostra di Matisse a Torino, meravigliosa mostra, credo che non ho visto, ma insomma spero di andarci, organizzata dal gruppo 24 ore. Milano, no, Monterosa oggi speriamo sempre. Oggi diluvia, piove sì. E dobbiamo pure essere contenti, perché lo diciamo sempre, si abbassa il PM10, le polveri sottili. Anche se ieri abbiamo dato quella notizia abbastanza sconfortante del Parlamento Europeo, che ha votato di stretta maggioranza che cosa? Il raddoppio delle emissioni possibili delle automobili, dopo che la Volkswagen è appena stata beccata, sì, proprio su quel problema lì, legalizzando il dubbio che fosse un'asse franco-tedesca per dire sentite, facciamo che va bene quello che stiamo emettendo adesso, alziamo i limiti invece che occuparci di centraline che devono rimanere fintamente sotto i limiti. Beh, insomma, chi ha votato questo provvedimento, i difensori di questo provvedimento dicono è un modo per non far fallire tutte le case automobilistiche subito che hanno, diciamo, in pancia, devono vendere queste auto che sono state prodotte in questa maniera. Però è un po', insomma, sa un po' di beffa, no? È un po' un modo per legalizzare, diciamo, quello che era una vera e propria truffa nel momento in cui è uscito lo scandalo del Dieselgate. Dovrebbero, spiegarcela meglio, sì, molto semplicemente, perché detta così è che noi ormai le auto le abbiamo, fanno malissimo, però vi diciamo semplicemente che vanno bene per legge, non è un bel sistema. Parleremo di Sanremo, parleremo di unioni civili, parleremo insomma, tante cose. Tra poco cominciamo, anzi cominciamo subito. Cominciamo. Vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. E va bene, cominciamo subito con il tema unioni civili. È cominciata la discussione in Parlamento, io potrei anche non dire altro, ammazzarmene, andarmene, perché abbiamo qua Carlo che ha seguito tra altri lavori, ha twittato, poi ha scatenato l'ira di Dio, si può dire, l'inferno, sì, penso di sì, su Twitter, inventando un hashtag. Quando si dice l'hashtag veramente? Sì, inventando un hashtag che è ci rinnamoreremo, però ci tengo a spiegarlo, nome, perché magari qualcuno dal nome se della Cirinna, ma però con il dato secondo me importante, ho scritto una lunga lettera a tutti i parlamentari, nella quale sostanzialmente dico che ognuno prenda la propria decisione, ma lasciando fuori sia questioni religiose, perché lo Stato è laico e quindi credo che nessuno voglia che dei precetti religiosi vengano fissati per legge, facendo l'esempio dico nessuno vorrebbe, uno può seguire la quaresima nella quale siamo o proprio ora iniziamo ad entrarci, ma nessuno vorrebbe che la quaresima fosse imposta per legge, ovvero che se ti beccano con un maritozzo in mano nei 40 giorni prima della Pasqua ti possono dare 5 anni di galera o 1 milione di euro di multa. Quindi quello è l'ISIS che vuole in realtà uno Stato religioso e abbattere nella democrazia, e credo che nessuno da noi voglia questo. E poi in generale di prendere questa decisione senza pensare che sia un derby, che sia gli uni contro gli altri, ovvero gay contro eterosessuali, famiglie tradizionali contro famiglie omogenitoriali, non è affatto così. E io penso che quando capiremo che questo non è un derby, ecco che allora ci rinnamoreremo gli uni degli altri. E credo che sia molto importante questo, perché la stiamo buttando su un conflitto assurdo. Stanotte mi sono ritrovato di nuovo a twittare, perché Formigoni, dopo che il Movimento 5 Stelle ha deciso per la libertà di coscienza, ha fatto un tweet dove dice: odore della sconfitta su Cirinnà sta procurando crisi isteriche gravi su gay, lesbiche, transessuali e checche varie, e diciamo si mostra contento. E mi sembra fuori luogo che un parlamentare in un momento così decida di sottolineare che l'altra parte sta male, nel momento in cui i diritti vengono negati, di stare a gioire perché è la sua parte che sta vincendo. Non mi sembra questa la discussione importante, quindi io spero che ci rinnamoreremo gli uni degli altri. Ci poi l'asta che è stato ripreso anche da Gramellini, quindi sì. Insomma, mia mamma è molto contenta. All'altezza del miglior Gabardini questa ci rinnamoreremo, bisogna dirlo. Al di là di come uno poi la pensi, bisogna ammettere che l'hai azzeccata stavolta. Cominciamo a sentire un po' di voci di questa settimana sul tema Cirinnà e poi il sindaco di Venezia Brugnaro. Rifletto però su quanta disinformazione e strumentalizzazione politica hanno fuorviato il dibattito pubblico. La frase che ritengo più falsa è che in Italia stiamo introducendo il matrimonio e l'adozione gay. Questo non è vero. Stiamo dando semplicemente tutela giuridica alla vita privata e familiare di coppie omosessuali. Noi dobbiamo dirgli che hanno una mamma e un papà. Mi dispiace, ma è arroganza culturale. Questa cosa non passerà. Purtroppo, state dicendo cazzate alla gente. La cosa peggiore è che dietro c'è la teoria del gender, che è quella del bambino che si può costruire su una provetta andando a innestare il seme su una mamma povera del mondo che poi partorisce un bambino a pagamento. Ecco, diciamo solo che un giorno, quando qualcuno risentirà queste parole, io penso che si vergognerà anche semplicemente chi le ha dette, perché fare un tale mischione, la teoria del gender che è scegliere i figli in provetta, non c'è niente che stia in piedi, al di là che la teoria del gender non esiste. Quindi è veramente uno scontro che non ha molto senso. Il discorso della Cirinnà è stato incredibile, in Senato è molto emozionante, poi adesso ognuno sta facendo il proprio discorso difendendo la propria. C'è una cosa che bisogna ricordare, forse vale la pena dirlo, anche qua al di là di come uno la pensi, la questione della stepchild adoption esiste già per le coppie eterosessuali, quindi la possibilità di ricorrere all'estero all'autore in affitto e poi di vedersi riconosciuta l'adozione da parte del compagno sul figlio naturale del compagno è una cosa che esiste già. Questa legge non fa altro che parificare in caso omosessuali e eterosessuali. Mi fai solamente aggiungere una cosa, esattamente come dici tu, esiste per gli eterosessuali dal 1983, e soprattutto, che è la stessa cosa che dico nella lettera che ho mandato ai parlamentari, che trovate anche sul mio Facebook, è esattamente questo, che chieda la parte dei bambini, dovrebbe quasi dire: noi vogliamo la Cirinnà solo se c'è anche la stepchild adoption, perché in questo dovrebbe essere una tua bellissima battaglia, Alessio, che giustamente hai i dubbi sul quando si usano troppe parole inglesi. Io credo che qua ci sia veramente un fraintendimento. Stepchild adoption non significa adottare un figlio a step, cioè passo dopo passo. Stepchild significa figliastro, nient'altro. Quindi stiamo parlando di bimbi che hanno già un genitore e che attraverso la stepchild adoption possono, se lo desiderano, perché tutto comunque passa attraverso un giudice, avere anche un secondo genitore. Sentiamo però anche le preoccupazioni, sempre su questo fronte, del ministro della Salute Lorenzini. Uteri in affitto, perché ultraprostituzione? Perché qui si tratta non semplicemente della vendita del proprio corpo per mangiare, come avviene in questi paesi, ma addirittura della vendita dei propri figli. We'll be right back. E però, veniamo al cuore di questo tema, di questa settimana, perché c'è stata una dichiarazione del presidente della Società Italiana di Pediatria, dei pediatri, che ha aperto le discussioni perché... Giovanni Corsello ha uscito con una dichiarazione sull'ANSA a metà settimana che ha scatenato anche qua un inferno. Ricerche dimostrano che vivere in una famiglia senza figura materna o paterna potrebbe danneggiare i figli. Allora, intervistato a richiesta di precisazione su questi danni che potrebbero esserci per i bambini che crescono in famiglie omosessuali, il pediatra Corsello ha rettificato e ha detto: instabilità e conflittualità in famiglia, sia esso etero che omosessuale, possono avere ripercussioni negative sullo sviluppo del bambino, bla bla bla, che diciamo che non è un contributo molto interessante alla discussione là, esatto, di tutto quello che mi ha incuriosito è ci sono degli studi, ci sono delle ricerche, perché un pediatra, per quanto autorevole, che fa una dichiarazione del genere, ma anche uno psicologo, chiunque, o si appoggia a degli studi, delle ricerche, oppure sta dando sostanzialmente la sua opinione, legittima, interessante, importante, autorevole, ma una opinione. Allora siamo andati a cercare se ci sono degli studi scientifici, delle ricerche in giro per il mondo, e ci sono. C'è per esempio una presa di posizione che dice il contrario di quello che dice il pediatra Corsello dell'American Academy of Pediatrics, oppure c'è un'importante ricerca della New York Columbia University che cita 77 studi accademici internazionali in tutto il mondo, 73 su 77 concludono esattamente che non ci sono diversità tra bambini cresciuti in famiglie etero o omosessuali. Gli altri 4 studi semplicemente non dimostrano il contrario, ma sono scientificamente inattendibili. Allora, ci siamo sentiti di ospitare questa domenica mattina una persona che fa la stessa cosa, che ci parla di ricerche, di dati, si appoggia su studi scientifici e non dà tanto la sua opinione, ed è la dottoressa Alessandra Marazzini, coordinatrice di area psicologica del laboratorio di adolescenza, lei stessa psicologa. Buongiorno. Buongiorno. A voi. Allora, prima di entrare nel merito con l'intervista, io sono andato un po' lungo nella presentazione, abbiamo le informazioni sul traffico, 30 secondi, e poi torniamo con la dottoressa Marazzini e con quello che dice un po' la letteratura scientifica. Noi ci fidiamo di questo, insomma, dei risultati, delle ricerche, degli studi. Poi le opinioni ci stanno tutte, ma sono appunto opinioni. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... E allora, l'abbiamo già salutata, buongiorno di nuovo alla dottoressa Alessandra Marazzini. La prima domanda che le voglio fare è questa: voi siete usciti proprio subito dopo le dichiarazioni di Corsello con un con una presa di posizione invitando a non confondere le opinioni con legittime con quello che dicono i risultati delle ricerche, la scienza, i dati scientifici. Allora, il primo dato, che è quello più evidente, è che dagli studi che lei ha anche citato, è che i figli di coppia omosessuale di fatto non si sviluppano in maniera diversa rispetto alla crescita degli altri bambini. Quindi, come dire, il primo dato è che non vi sono differenze, quindi non si evidenziano differenze significative tra bambini che nascono e crescono in famiglie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali. Può sembrare magari strano qualcuno che invece è convinto del contrario, no? Ci può essere una difficoltà a capirla questa cosa, questo sì, però, sì, però sì, di fatto... Difficoltà che però condivido perfettamente con lei, la sposterei più su una, come dire, su una lettura, no? Su uno sguardo più generale e di tipo culturale. Certo. Ed è probabilmente ancora questo che ci mette in difficoltà, e anche gli studi sono molto specifici su alcuni tipi di caratteristiche che i bambini, rispetto al loro sviluppo della personalità, possono avere nella crescita. Penso che ancora bisogna fare molta strada sugli studi e sulle ricerche scientifiche che possono, diciamo così, tener conto di variabili ancora difficilmente misurabili, che hanno a che fare con il contesto culturale, con la stigmatizzazione delle famiglie omosessuali che hanno figli in casa e che quindi come dire, si sentono come dire, un pochino messi da parte, un pochino messi in difficoltà e guardati diversamente. Quindi come dire, ancora dovrebbero essere altre, no, le sguardi, le ricerche da fare su questo argomento, e non semplicemente semplicemente che cosa avviene a casa strettamente legato all'identità di genere dei loro genitori. E una cosa anche che mi sembra importante, lei già lo stava sottolineando, è che tra l'altro lo stesso dottor Corsello, sì, quando gli è stata richiesta, diciamo, una precisazione sulla sua dichiarazione che ha fatto titolare ai giornali medici divisi sui risultati delle adozioni gay, quando invece in realtà la letteratura scientifica non sembra, non è divisa, lui dice: uno degli aspetti importanti è quello della percezione della diversità da parte dei coetanei del bambino. Se c'è un problema di stigmatizzazione sulle differenze, sei figlio di due mamme, di due papà, in negativo, allora lì può sorgere il problema. È per questo forse proprio che ci vuole una legge, che ci vuole un insegnamento, un'educazione anche nelle scuole che ci aiuti a capire che cosa, a superare questa percezione della diversità. Sì, rispetto una cornice di riferimento differente, no? Che non guardi solamente all'identità di genere della coppia genitoriale, ma che guardi anche alle persone. Nella mia esperienza clinica, io mi occupo di adolescenti, no? Come terapeuta, nella mia esperienza clinica sia i ragazzi che i bambini, quando entrano in contatto con, anche tra di loro, diciamo così, con atteggiamenti, no, differenti rispetto all'orientamento sessuale, c'è una naturalità, una spontaneità che, no, che è abbastanza immediata, no? Perché le persone non si connotano innanzitutto rispetto alla loro differenza sessuale. Questo fa parte poi, come dire, di una conoscenza differente, di un approfondimento che si struttura nel tempo. Che cosa voglio dire? Che il contesto degli adulti è quello su cui noi dobbiamo porre l'attenzione, perché rispetto ai bambini e ai ragazzi c'è una, come dire, una curiosità, un'apertura e anche una lettura molto differente, e gli esempi che i bambini, che i ragazzi hanno legati sia alla letteratura ma soprattutto alla musica, ai loro cantanti preferiti, è molto più aperta, è molto oltre, no, rispetto a quello che noi invece possiamo immaginare. Per noi adulti indubbiamente è un cambiamento, no, di visione decisamente epocale. Però è vero quello che lei dice, che i bambini sono sicuramente, hanno dei riferimenti, anche i ragazzi, gli adolescenti, nel mondo della musica, della cultura, dove ci possono essere icone anche gay, e quindi questo li fa superare d'un passo tutti i problemi. Però è vero anche che i bambini sono terribili quando nel bullismo, nella stigmatizzazione delle differenze, quindi lì qualche rischio ci può essere, però è importante dire che bisogna lavorare per superare questi pregiudizi. E soprattutto, no? Perché il rischio non è sufficiente, nel senso che il fatto che ci sia il rischio non è un buon motivo per cui uno non possa avere dei figli, nel senso che anche i figli di genitori che sono in carrozzella vengono presi in giro, il che non mi sembra un buon motivo per vietare a persone in carrozzella di avere figli. Certo. Quindi non solo, direi che i ragazzi in questo momento, no, dal mio osservatorio, sia del laboratorio adolescenza sia appunto con, no, come terapeuta, sono molto più concentrati e attenti, non tanto rispetto a un orientamento sessuale specifico, ma rispetto per esempio al tema della bisessualità. Diversi ragazzi di cui io mi sono occupati sono entrati in grande confusione perché aprono sulla possibilità che il loro orientamento non sia così definito e non che sia in fase di definizione. Quindi questo aprirebbe ancora su un tema differente di cui per esempio sento parlare abbastanza poco. Sì, io devo dire, mi scusi, sono Carlo Gabardini, ho apprezzato moltissimo il vostro comunicato per due motivi. Il primo perché voi giustamente dite non ci sono in letteratura evidenze scientifiche dalle quali emerga che una famiglia adottiva omosessuale possa essere diversa. Se qualcuno sa invece altre cose, mostri dei documenti invece che parlare e basta, e questo volevo veramente ringraziarvi. E l'altra cosa che mi sembra molto importante, che voi giustamente dite, il tema delle adozioni è un tema comunque di per sé molto importante, bisogna avere moltissima cautela, e giustamente ci si dimentica secondo me spesso che comunque sia adottare un bambino è molto difficile, perché giustamente il bambino deve essere tutelato, e nel caso di coppie omosessuali sarebbe identico, quindi è evidente che un sacco di famiglie omosessuali non sarebbero in grado di adottare un figlio, come un sacco di famiglie eterosessuali non lo sono, non hanno i requisiti, semplicemente non è una questione di giudizio sulla loro famiglia, e sottolineare questo mi sembra veramente importante. Il dubbio che mi viene e che mi piacerebbe chiedere è perché e come mai Corsello decide proprio ora di dare la sua opinione nel momento in cui si sta votando questa legge, perché è troppo ora, perché penso che ci sia un fermento culturale differente, ci siano finalmente delle pluralità di voci che si levano e che vengono da ambienti che non sono solo di uno schieramento piuttosto che di un altro, ma questa molteplicità penso che sia, come dire, no, il nuovo che avanza rispetto a proprio una mentalità differente. Però no? È grave che sia un pediatra, mi scusi, o sbaglio? Beh, però appunto, come dicevamo prima, dietro un omosessuale c'è una persona, dietro un pediatra c'è una persona, certo, che avrà dei propri pregiudizi culturali, avrà una propria posizione personale che forse è venuta fuori, come noi abbiamo un po' sottolineato. Ecco. Ha ragionissimo, voglio venire in cura da lei, mi scusi, assolutamente ragione. Noi la salutiamo e la ringraziamo, la dottoressa Alessandra Marazzini del laboratorio Marazzani. Scusi, Marazzani. No, non è problema. Grazie, buona domenica, grazie per essere stata con noi. Grazie mille. A lei, arrivederci. Del laboratorio adolescenza, che tra l'altro ne fa parte anche il grande psicologo Scaparro. Abbiamo un minuto per chiudere, forse sentiamo un ascoltatore, però voglio precisare una cosa con Corrado da Palma, che su WhatsApp scrive: ma guardate che anche le ricerche scientifiche alla fine sono opinioni, e poi da chi sono finanziate? No, non sono opinioni. È che la stessa differenza, Corrado, è quando hai mal di denti, vai dallo stregone o vai dal dentista? E questa è la stessa differenza, c'è una ricerca scientifica sull'omosessualità e una opinione libera, ma opinione. Guido da Como per chiudere, buongiorno. Sì, buongiorno. In 30 secondi. Carlo Conti? Il personaggio della settimana? Il personaggio della settimana. Sta sì. Sotto i riflettori. Alla grandissima, ed è la settimana giusta, anzi nella settimana prossima, ma non è il personaggio che avevamo. Grazie Guido, è un altro il personaggio che stiamo cercando, che sta sotto i riflettori. 800 24. Diamo un indizio subito. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Io voglio bene a Padre Pio perché lo vedo come un fratello maggiore, burbero, che ha avuto tanti malanni, tanti acciacchi, tante calunnie, e però ha trovato la pace. Viva Padre Pio, adesso un po' di pace pure a me. C'è commercializzazione, c'è strumentalizzazione, c'è approfittamento, c'è speculazione. Sicuramente intorno a lui c'è stato, ma fatemela dire alla Di Pietro Manieri. Ma lui che ci azzecca? Lui ha fatto e fa del bene. Vabbè, ci stava un Di Pietro su Padre Pio. Beh, notizia di questa settimana, il trasporto delle spoglie di Padre Pio dalla Puglia a Roma, poi dentro San Pietro. Soprattutto la notizia, si è occupati molto della notizia, anche perché pare che il Giubileo non stia andando benissimo, no. Cioè, si aspettava dei numeri molto maggiori, più alti, e invece Padre Pio è abbastanza una certezza da questo ma punto si è scatenato di vista. Poi anche un dibattito sui social, bisogna stare attenti perché se ne scatenano uno su qualunque cosa. Al minuto, su qualunque cosa, e anche un po' di articoli di giornale sul fatto l'Italia ferma al Medioevo, siamo ancora lì con Padre Pio. Io sicuramente non sono andato, diciamo, a seguire il trasporto della spoglia di Padre Pio, non sono un fan, però penso che sia legittimo credere anche in queste che possiamo definire delle superstizioni, delle credenze. Stiamo comunque parlando di Giubileo, quindi non... secondo me diventa un po' difficile. È ovvio che se uno non crede minimamente gli può non interessare. Nel momento che già si parla di Giubileo, poi dopo scomodare il Medioevo mi sembra fuori luogo. Mi preoccupo di più se si fa confusione tra opinioni e ricerca scientifica. Cioè uno vada pure a credere perché gli fa piacere, lo fa star meglio, nel miracolo di Padre Pio. E poi è tutto lecito credere, insomma. Quando però parliamo, per esempio, come in questo caso, degli effetti delle adozioni da parte di coppie omosessuali sui bambini, preferisco leggere delle opinioni scientifiche, delle ricerche, degli studi, come abbiamo fatto prima ospitando la dottoressa Marazzani. E quindi a chi continua a scrivere l'opinione del presidente della società di pediatria Corsello, che si è espresso, diciamo, criticamente su questa questione, sono autorevolissime. Sono appunto opinioni. E tanto è autorevole che ha rettificato lui stesso dicendo: no, ma io stavo dicendo che comunque se i genitori litigano, sia che siano omosessuali sia che siano eterosessuali, questo potrebbe avere delle ripercussioni sul bambino. E direi: ma chi dice il contrario? Almeno su questo cerchiamo di essere d'accordo, la differenza tra opinioni e scienza. Alessandra da Pavia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Vi ricordo anche, scusa Alessandra, che stiamo cercando un personaggio della settimana e il primo indizio che abbiamo dato è che il personaggio è sotto i riflettori. Alessandra, su cosa voleva intervenire? Sul personaggio della settimana, buongiorno a voi. Benissimo. Buongiorno, buona domenica. Chi è? Buona domenica. Secondo me è Gabriel Garco, per via dello scoppio della villa dove risiedeva, che è morta questa persona. È una storia pazzesca, sì. Esatto, che lui fino all'ultimo era in dubbio sulla partecipazione al festival. Poi ha detto che questa cosa lo ha molto cambiato, non sa ancora come, si è fatto riprendere, fotografare, è tutto in ordine, lui parteciperà, credo, dall'inizio al festival, no? Sì, perlomeno le ultime notizie davano così, quindi mi è venuta in mente questa... Mi è venuto in mente lui, ecco. La notizia c'è assolutamente, non è il personaggio che abbiamo scelto questa settimana, però la ringraziamo molto di aver raccontato la notizia di Garco, soprattutto ricordando che una donna è morta, che mi sembra importante perché in un sacco di titoli ci si preoccupava moltissimo della salute di Gabriel Garco, e invece ricordiamo che comunque nell'esplosione di questa casa è morta una donna. Carlotta da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io, per me il personaggio è Renzi, per il caso dell'aereo, quello strano triangolo all'Italia e i TAD. E dicono che il governo non paghiamo noi, Palazzo Chigi dice no, paghiamo noi. Mm-hmm. La questione dell'Air Force che accompagna Renzi nelle sue visite di Stato, che è preso dall'Alitalia che lo prende da Etihad, è un caso che è stato sollevato dai giornali nei giorni scorsi. Renzi sicuramente è sotto riflettori per questo e per altri motivi, per qualunque, non in tutte le settimane, ma non è il personaggio lui che avevamo scelto. Carlotta, grazie comunque per averci chiamato. È un altro il personaggio sotto riflettori che andiamo cercando. Vogliamo dare a questo punto un altro indizio? Sì, lo diamo. Volevo solamente chiedere sulla questione dell'aereo, perché come sempre siamo contenti che ricordiamo altre notizie, perché ho visto che viene chiamato Air Force Renzi, ma è il nome ufficiale dell'aereo oppure è semplicemente una sintesi giornalistica questa? Non lo so, non ne ho idea. Perfetto. E diamo un secondo indizio al personaggio di questa settimana. La notizia o il nostro personaggio ha a che fare con il riuso. Sarebbe contento il nostro Ercolini. Ecco. Quindi un personaggio sotto riflettori e notizia che ha a che fare con il riuso. 800 24 00 24. Mettete in moto le vostre celluline grigie, anche oggi due biglietti del catalogo della mostra di Matisse a Torino in palio per il primo che indovina. Salvatore da Catania, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire, dire la mia rispetto alle adozioni gay, no? Sì. Le adozioni omosessuali. Beh, io credo che in effetti l'opinione del professore Corsello sia un po' più che una semplice opinione, perché insomma deriva da convinzioni maturate sia all'interno di un percorso di esperienze molto forti che sicuramente nessuno di noi ha. Quindi certamente un'opinione, ma sicuramente supportata da un strato di informazioni acquisite. Ma infatti, ma non da studi, perché in realtà gli sono stati chiesti gli studi e lui ha detto gli studi non esistono, quindi quello che vorrei dire è che probabilmente serve in maniera seria, prima di varare delle leggi, prima di andare avanti con operazioni definitive, servirebbe acquisire degli studi molto, molto sostenuti su quelle che sono per esempio le percentuali di omosessuali nel mondo della pedofilia. Questo giustamente, anche solo per avere un'informazione, perché se ne dicono tante, chi dice cosa c'entra, mi scusi, nel senso che sarebbe come chiedersi quante copie eterosessuali riguardano l'uxoricidio? Tutte, tendenzialmente tutte, però non mi sembra un buon motivo per dire che forse uomini e donne non possono mai più sposarsi. Il problema è che tutti quelli che sostengono l'adozione omosessuale dicono sempre che ogni argomento non c'entra, che ben altro si tratta, che di altre cose bisogna discutere. E così non sappiamo quante coppie omosessuali siano stabili rispetto a coppie eterosessuali, quante coppie omosessuali hanno degli equilibri psicologici solidi rispetto alle coppie eterosessuali. No, no, lo sappiamo, perché ci sono gli studi. Ci sono gli studi, ci sono tutti quelli che abbiamo citato prima all'inizio, sono studi che dicono che non esiste una differenza sull'educazione dei figli, nel senso che tutti gli studi, proprio studi. L'assolutismo, proprio studi. L'arroganza intellettuale con la quale il mondo omosessuale sostiene delle scelte, delle decisioni, vorrebbe Salvatore, mi scusi però, non, perché lei può parlare. Sì, tutti Salvatore. Lei può parlare di atteggiamento talebano e di arroganza legittimamente, però io ho citato due studi scientifici, uno della Società Americana di Pediatria e uno dell'Università della Columbia, che cita a sua volta 77 studi internazionali accademici. Il dottor Corsello non ha citato alcuno studio. Per ora stiamo 2-0. Per quanto riguarda gli studi scientifici, per il resto sono opinioni pur legittime, come dice lei, o addirittura autorevoli, ma opinioni. Salvatore, io la saluto, devo andare sul traffico, però in 30 secondi facciamo un altro ascoltatore, forse sul gioco. Carolina da Como, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Vorrei rispondere al quesito, ma credo che sia già sbagliato, perché il secondo indizio mi viene poco congeniale. comunque lo dico, ho pensato alla Luna, perché parecchi milioni di anni fa aveva avuto il crash con un altro satellite, da lì era nata, per cui come illuminata, è illuminata dal Sole anche lei, ed era sorella della Terra, insomma, questa cosa è saltata fuori sta settimana, credo. Ci coglie impreparati, possiamo dirlo. Intanto siamo molto contenti, perché come ricordiamo i nostri ascoltatori, spesso il nostro personaggio non è un essere umano, non è per forza un essere umano, quindi la Luna sarebbe accettabilissima. Era bello come personaggio, però in effetti il secondo indizio, che la notizia ha a che fare con il riuso, era... Ma però chi lo sa, perché magari un giorno useremo la Luna anche e la adopereremo. Esatto, speriamo di no, ma la ringraziamo molto. Grazie Carolina per aver chiamato, per aver giocato con noi. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo dopo il traffico. Chi ha le poste, chi ha i cani addestrati, prima però un ultimo boccone, un po' di vino per sciogliere la tensione. E sono pronti tutti i piani ben studiati. Senti se Gugi e la l'organizza. Ecco che sbuca la bestiola nera. Se non la centri è sfortuna vera. Sbatti il fucile e ti prende una gran stizza. Fai il cinghiale. Dai, dai, dai, prova a sparare. Prendi la mira tra i cespugli verdi. Stai attento che se no lo perdi. Avrete già capito dove stiamo andando a parare, eh? Sui cinghiali, sul sugo della domenica. Ah, sul sugo, così subito, a gamba tesa. Sui cinghiali, si continua a discutere. Giustamente, c'è una legge in Toscana che è stata approvata e che prevede l'abbattimento di circa 150.000 cinghiali. C'è un appello degli intellettuali contro questo, che viene addirittura definito quasi una strage, però il motivo con cui viene fatto questo piano di abbattimento lo sappiamo tutti, è che chiaro, ce ne sono troppi, cominciano ad esserci troppi, minacciano i centri abitati e insomma bisogna tenere sotto controllo questa questione qua. Parliamo di caccia con Mauro Corona, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Grazie, buona domenica, grazie per essere con noi, Corona. Allora, io ne abbiamo parlato anche all'apertura della stagione di caccia con lei e noi siamo convinti e sereni sul fatto che, insomma, un po' di attività venatoria non faccia male a nessuno, anzi, cioè fa male ai poveri animali, però questo è, viene dalla notte dei tempi. Però si è chiusa la stagione di caccia, Corona, e il Movimento 5 Stelle ha fatto un bilancio, 17 morti, chiede che ci siano un po' di controlli. Controlli in che senso, mi scusi? Controlli per esempio sugli over 70. Chiedono a Martina di introdurre test sui cacciatori over 70. Forse non hanno tutti cosa. Se sono in grado di intendere e volere. Forse però. Allora se guardiamo dei morti sulle strade, sulle strisce pedonali, cosa facciamo? Cosa facciamo? Magari facciamo dei controlli anche lì, anche per sì. Ma queste sono queste, secondo me, ma sono mie suggestioni da un povero diavolo, che però queste qui sono delle scelte di una certa eclatanza per fare rumore e guadagnare qualche voto nell'urna. Ecco, perché uno non è che una volta controllato è capace di intanto il porto d'armi c'ha una severa valutazione, non so, ogni quanto anni, ma poi chi mi dice che domani uno che è stato valutato bene, no? Che è capace di intendere e volere, chi mi dice che domani non fa una strage domani mattina? Chi questo me è vero. Lo dice? Però può essere una forma di controllo in più. Lei ce l'ha il porto d'armi, Corona? Io ho il porto d'armi, anche se non pratico più la caccia, perché mio padre mi ha lasciato i fucili, era cacciatore, sì. E quindi li teniamo più per memoria con mio fratello. Sono stato cacciatore, oggi non vado più perché non ho tempo, ma non posso scagliarmi contro i cacciatori e fare il pentito di comodo. No, ma guardi, anche mio nonno era cacciatore e io non ho nulla, anzi ho dei ricordi, dei suoi racconti che mi porterò sempre con me e su questo siamo d'accordo. Però 17 morti non sembrano pochi, ma alla cosa fine. Cosa c'entra 17 morti? Io il porto d'armi me lo danno perché sono abilitato, non sono pasto, non sono un alcolista, non sono, e quindi sono abilitato al porto d'armi. Beh, allora forse sono pessimi cacciatori, però qualche cosa c'è, ma nel senso, ci sono 17 morti, cosa facciamo? Ma quelli che vanno in giro con gli sci e muovono le valanghe, chi non è pessimo di qualcosa? Giustissimo, ci mancherebbe altro. Chi non è, chi non guida da folle o da addormentato e fa una strage? Ai più pessimi però non metterei un fucile in mano, però poi insomma. Però non è vero. Ma chi può giudicare quanto è pessimo? Quando il problema è questo, che quando lei mi rilascia il porto d'armi, io sono incapace, non sono pessimo, divento giusto. Pessimo quando succede l'incidente, smettiamola con questa demagogia. Intanto dico che noi abbiamo chiamato Corona per commentare questa notizia, diciamo, interlocutoria sulla questione della caccia, però c'è anche una buona notizia che adesso poi andiamo e che riguarda la montagna, andiamo a parlare. Pensavo il sugo di cinghiale. e quindi lo voglio, insomma, questo lo voglio anticipare. Però è vero, Corona, che insomma, si sarà un po' alzata l'età media dei cacciatori. Non ci può essere un problema anche proprio specifico sull'età, perché forse tra i giovani va un po' meno di moda e quindi forse il problema è anche questo. Ci sono persone di 80 anni che vanno traballando in montagna col fucile e possono mettere a repentaglio altre vite. Ci sono persone di 80 anni e di 90 che vanno contromano in autostrada. Infatti, allora perché questo facciamo? È un problema. Le danno tutte le porto d'armi, leviamo tutte le patenti. Lo ripeto, scusatemi la mia foga. Ma ci mancherebbe. Quando uno è abilitato, ecco, in quel momento lì una persona che non ha fatto errori, e l'errore lo può fare chiunque. E quando hanno fatto l'errore che si sono sparati tra di loro, questa è anche la foga di sparare a qualcosa che... Allora uno diventa improvvido. Ma prima non può ritirargli il porto d'armi perché ha superato gli esami. Come non può ritirare una patente a qualcuno che non ha fatto nulla fino a quel momento? No, è chiaro il suo discorso. Io penso semplicemente, non lo so, modestamente, poi sarà il Parlamento a decidere che forse aumentare la frequenza dei controlli. No, figuriamoci, anzi sono forse più le volte che decide male quelle che decide bene. Ecco, però ecco. Magari può darsi che su questa, come anche sulla patente, perché l'invecchiamento della popolazione riguarda anche i piloti di automobili, certo. Automobilisti, quindi forse una riflessione su questo ci potrà stare. Però adesso le voglio chiedere invece un parere su questa questione, le sarà già stata chiesta, del gli abbattimenti dei cinghiali previsti per esempio dalla regione toscana, che hanno scatenato molte reazioni tra gli animalisti, ma anche tra alcuni intellettuali. Questa cosa di tenere sotto controllo la popolazione dei cinghiali è sicuramente una cosa di buon senso, ma è troppo burocratica secondo lei? Bisogna lasciare tutto in mano ai cacciatori, oppure è giusto che la regione intervenga su questo? Ma penso che sia giusto che la regione intervenga. Il problema è qui questo sollevamento di intellettuali, e dico che è una questione di numero, ecco, è questo che mi dà fastidio, ecco, perché allora è una questione, se ne abbattiamo 10, nessuno dice guardi, qui da noi i cervi stanno distruggendo le colture, stanno distruggendo gli orti, quindi si fa un abbattimento che sono, non so, una ventina là, ma ci sono branchi di 80-90 cervi sulla strada, quindi ci si può sbattere con le automobili, ora non ti pagano nemmeno più l'automobile distrutta dal cervo, quindi ne prelevano 20-25, ecco che nessuno dice niente, fossero 400, ecco che si solleva lo scandalo. Una mia opinione, così, visto che mi avete tirato in ballo e non ho la coda di paglia, una mia suggestione, una mia cosa, sì. Dico che è una buona cosa fare l'abbattimento, altrimenti trovino qualcosa di più etico, ma comunque, per esempio, ho sentito parlare di castrazione, ma come sì. Fa? Per esempio, nelle Marche Corona stanno studiando la possibilità di somministrare la pillola al cinghiale. Ecco il punto, mi scusi, sì. Qui siamo nel paese delle ipotesi, ipotizziamo che, o auspichiamo, sì, questo è vero. Studiamo, per quanti secoli studiano la faccenda? E questo qui è il problema, no? E hanno tutti ragione. Come fa a castrare i cinghiali? Con mangiare, ma castra anche quelli che non dovrebbero essere castrati. Ma infatti si parla addirittura di pillola per i cinghiali. Ma certo, se questo risolve il problema... L'abbiamo chiamata per farla arrabbiare, è evidente. Ma diano la pillola ai cinghiali, mi va benissimo. Ecco, dino, ma sono cose... Però lei dice che arriva il preservativo, perché il preservativo secondo me è più difficile. Ma è chiaro, e questa è anche qui è una questione, si sollevano per creare rumore e quindi avere l'attenzione, ma perché io vorrei che gli animalisti, dei quali ho rispetto, perché è una loro scelta, ma io vorrei che proteggessero tutti gli animali. Perché, cioè, anche l'uomo. Perché non proteggono le pantegane, i rati, i vermi dei pescatori? No? I vermi dei pescatori, non ci pensa mai nessuno ai vermi dei pescatori, nessuno, è vero? Non ci pensa ai pesci, alle balene, alle catture con le reti. Sono. Quindi l'animale, ecco, che dà visibilità, dà voti. L'animale dà voti. Ma il cinghiale può essere pericoloso o è solo una questione legata ai cuccioli? Dell'aggressione all'essere umano, perché il quale sì. È successo, perché ad esempio se lei attraversa il campo quando c'è la mamma con i cinghialini, questa attacca, ecco, queste sono le mamme che attaccano, anche sì. L'orsa, ecco. Il problema è che distruggono anche molte culture, certo. Qui da noi i cinghiali, che nessuno, hanno fatto campo dei prati, i prati sono diventati campi arati, ora ce ne sono troppi, quando si parla di 1 milione oltre di capi, ce ne sono troppi. Adesso che gli animalisti decidano loro se usare il preservativo, la pillola o fare la io, la mia idea da vecchio cacciatore è quella della selezione di abbattimento, e so che dicendo questo mi attirerò le ire, le lettere anonime di questi crepa tutti, ammazziamo, perché succede questo, perché oggi non c'è più un discorso civile, eh. Oggi gli schieramenti sono radicali. Ma uno lasci stare i social network e quelle cose lì, perché lì è uno sfogatoio continuo. È uno sfogatoio. Io posso testimoniare personalmente quello che dice Corona. Io ho un amico che ha un terreno in Toscana, che diciamo, il frutto del suo lavoro è il suo stipendio da quel punto di vista. Cioè lui vive di quello. E la lotta contro i cinghiali, contro i caprioli, contro gli animali che gli vanno a mangiare la frutta fresca, biologica, che poi noi ci piace tanto trovarcela sulla tavola, e che però lui alla fine dell'anno fa il bilancio, fa i conti e vede quante piante, giovani piante, sono state, ahimè, mangiate dai golosi caprioli, però dai cinghiali, che fanno dei disastri, quindi questo è un problema e lo confermo per questa mia piccola esperienza. Però c'è una buona notizia, Corona, ed è questa. Una rivista che si occupa di montagna, Dislivelli, sono dei ricercatori e dei giornalisti specializzati di Torino, ha fatto uno studio sul ripopolamento dei nostri Appennini e delle nostre montagne. Ci sono 850.000 stranieri, cittadini a questo punto italiani, ma che vengono dall'estero, stranieri. Degli stranieri abbiamo spesso un giudizio diviso, ci fanno discutere, qualcuno è preoccupato per l'invasione degli stranieri, però in questo caso aiutano a ripopolare una parte importante del nostro territorio, come per l'Italia, almeno la montagna, di cui lei è un tifoso da sempre. Lo vede questo connubio e come lo giudica? Guardi, quando arrivano anime, quando arriva gente, verranno solo a fin di bene e sono a volte molto più appassionati di noi della montagna, e molto più l'hanno più a cuore e a cura, e quindi benvengano qui, che è un paese abbandonato, no? Qui siamo patrimonio dell'UNESCO, sì. Qui c'è stato il Vajont che ha ucciso 2000 persone, il mio paese vecchio, che ha una storia, una cultura, dove non si può piantare un chiodo perché è protetto dalle belle arti, ma sta crollando, le case che crollano come un domino, una dopo la... Ben vengano gli stranieri a tenere acceso un fuoco in quelle case, a tenere i muri caldi, a fare sì che non crollino, a rifare i tetti, a rifare tutto. E poi c'è uno scambio di culture, c'è uno scambio. Non si può più vivere trincerati nel proprio orticello, dire noi siamo i migliori. In Friuli dicono e fasin di biessoi, facciamo da soli. No! Questo è l'errore, il campanilismo. Ben venga gente, ovviamente quando arriva gente ce n'è anche che non è a posto, che magari delinque, ma anche qui, anche negli stanziali c'è chi delinque. Lo scambio di culture è di per noi, siamo anime, Il sangue delle persone è tutto uguale. Che nazionalità, che persone sono, almeno nella sua esperienza, perché io leggo dalla gestione degli allevamenti alla cura dei boschi, spesso magari sono persone che hanno anche nella loro cultura un rapporto con la collina o con la montagna, a volte magari lo imparano, certo. Fanno di necessità virtù. Guardi che qui da noi le malghe, l'antico mestiere, sì, dei malgari, i pastori, non c'è più nessuno di noi, che siamo diventati pigri, invece sono loro, sono albanesi, sono rumeni, sono è gente che ha una passione e una pulizia quando conducono le malghe. Così. Dobbiamo accettare questo scambio di culture affinché funzioni la montagna, perché il montanaro è stato il primo a tradire la montagna, il montanaro, perché ha avuto le comodità, e quindi dobbiamo accettare la conduzione della vita, il vivere, certo, in un assieme. E non essere sempre settari, a quello è un foresto, ma tu chi sei? A me viene da ridere quando vado in montagna con qualche amico, mi dice, ah ma lì c'è troppa gente, ma tu chi sei? Lui non si accorge che è gente a sua volta. Certo, a noi piace, a noi cittadini piace la montagna, ci piace il romanticismo, ci piacciono gli angolini isolati, però poi ci piace girare l'angolo e avere il ristorante e l'albergo e le piste innevate con tutti gli operatori. Ci va una preparazione di base nelle scuole, nei bambini. Io guardo, io dico sempre, mi sono attirato le minacce, ma nelle scuole vanno mandati i contadini, gli artigiani... le guide alpine. È vero, dovremmo fare prima o poi una campagna seria, Corona. Lei dovrebbe fare una campagna seria su questo. E i cacciatori. Qui si sono sollevati tutti contro. Nessuno come il cacciatore può insegnare al bambino non a uccidere gli animali, ma a muoversi nella montagna, a orientarsi, a distinguere gli animali, gli alberi, a fare un fuoco quando serve, a salvarsi la pelle. Perché il rocciatore a volte, se gli togli la corda, è perso. Non sa nulla di montagna. Quando io dissi questo, l'ho scritto su un libro, sono stato fucilato verbalmente da questi verbalmente, sottolineiamo verbalmente, fermiamoci qua. Dovremmo fare prima o poi una campagna vera, noi di si può fare, l'appoggiamo, Corona. L'altro rimane in piedi. Corona, noi di Radio 24 ci siamo, se vuol fare una campagna proprio seria, cercando di coinvolgere anche proprio il ministro, perché è giusto portare non gliene frega nulla. Senta, se mi dà una mano, io vorrei fondare, sì, un qualcosa, un ente, una società che protegga la gente normale dai protettori di natura. Questo è possibile. Però a me piace invece molto l'idea. Intanto la ringraziamo. Grazie per essere stato con noi, Corona. Buona domenica. Grazie mille. Come sempre, parole che possono non trovare tutti d'accordo, anzi non devono trovare tutti d'accordo, perché sono parole scolpite proprio con l'accetta nel legno, quelle di Corona, ma che a volte riescono a cogliere nel segno e a suscitare delle reazioni, a farci riflettere. Io credo che quello che lui dice sulla campagna nelle scuole, con gli artigiani, i contadini, i cacciatori, sarebbe utilissima. Chissà, non ci ha mai pensato nessuno a fare questo. A fare questo non ci ha mai pensato. Non mi ricordo io a scuola di aver mai avuto lezioni di questo tipo. Sulla caccia? Ma anche sull'agricoltura. Ah, certo. Non lo so. O quelli che le guide dei boschi, o gli artigiani. Tutte queste cose che si dicono, si vanno perdendo, e poi nessuno fa niente perché non si perdano. 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo con gli ascoltatori. Confidiamo e chiediamo fermamente al governo egiziano di consentire alle autorità italiane di collaborare a queste indagini, perché vogliamo che emerga fino in fondo la verità su quanto è accaduto al nostro concittadino. Anche noi speriamo che si faccia presto luce, si dica presto qualche parola di verità su quello che è accaduto a Giulio Regeni, che con tutta evidenza non è morto per un incidente o per mano di criminalità comune. Ci sono diverse cose che lo fanno intendere. Vorremmo forse dal ministro Gentiloni un pochino più di convinzione, chissà, in questa dichiarazione. Più che sperare, da lui ci aspettiamo che si muova affinché si faccia davvero chiarezza, perché insomma è doveroso nei confronti di un ragazzo che non ha fatto niente di male, anzi, e soprattutto la sua per famiglia, capire, per conoscere e capire che cosa sia successo. Ed è morto in un paese che continua a ricevere una buona stampa, vogliamo dire così, a non essere additato come un regime, negli articoli di giornale, ma non nelle dichiarazioni forse dei politici, che sono più concentrate su altre zone del mondo. Ma è un posto, l'Egitto, dove comincia a diventare quasi pericoloso andare. Non so. Direi molto. C'è stato in risposta dopo tutta questa vicenda di un'attivista egiziana che ha fatto un lungo e preciso post sul suo Facebook dicendo: non venite, perché non siamo pronti ad accogliervi e rischiate la vita, nel senso proprio che rischiate la vita, non che a volte succede qualche cosa, che si rischia la vita per strada. Riusciremo ad assegnare il premio di questa settimana? Marisa da Genova, buongiorno. Marisa? Buongiorno. Pronto? Prego buongiorno, Marisa. Buongiorno a voi. Eccola là. Eccola là, con un po' di pioggia do la mia risposta. Ma da dove che chiama? Da Genova. Da Genova. Piove, perfetto. Piove anche qua a Milano. Sì, bene, siamo vicini. Esatto. Allora, per me, indubbiamente, il personaggio della settimana è Padre Pio. Padre Pio? Beh, insomma, la notizia c'è su Padre Pio, hai voglia te. Tante notizie sotto i riflettori, non so l'indizio sul riuso. Mi interessava il riuso, però, perché abbiamo dato un indizio che la notizia... No, non l'avevo sentita, eppure siete la mia radio preferita. Si era perso il momento in cui ha dato l'indizio. Non è assolutamente un problema, è che ero curioso, perché magari riusciva a legare, nel senso che comunque è il riutilizzo della salma di Padre Pio per questo giubileo. Non è il personaggio che stava grazie cercando, Marisa. Ma la ringraziamo molto anche per aver ricordato una notizia che abbiamo anche ricordato noi stessi. Lo so dove volevi arrivare, tu Carlo, volevi arrivare a grazie Marisa. Grazie mille. A costruire qualcosa sul riutilizzo delle specchie, in effetti anche tecnicamente non aveva tutti i torti Marisa, si tratta di riutilizzo. Esatto, anche, ma mi interessava, caso. Non c'era né lo polemica, sai che è quasi più personaggio lui di quello che avevamo pensato noi con quei due indizi. Andiamo con Lilli che chiama da Arezzo, buongiorno. Lilli? No, non c'è. Io? Sì. Mi sente? Sì. Certo, benissimo. Io ho pensato al commissario straordinario Tronca a Roma. Per quale motivo? Perché io ho sentito l'indizio dei riflettori. Sì. Perché ho pensato che con un'azione molto normale, perché qualcuno non ci ha pensato prima, ha portato alla luce una situazione di... degli affitti, quella degli affitti, ecco, immagino, sì. Sì, ha voluto fare un censimento e insomma qualcosa si sta muovendo per la prima volta in una questione, come dire, agghiacciante, sconfortante, ecco, quella degli affitti a 7 euro al mese delle case del Comune di Roma. Non era però lui il personaggio, Lilli, quindi anzi grazie come sempre per averci ricordato questa notizia. Però non era lui. Francesco da Bari. Pronto? Prego, vediamo. Pronto. Sì. Secondo me è Bassolino. Bassolino, qual è la notizia? È perché è tornato alla ribalta come candidato sindaco? sì. Non proprio in questa settimana. Non proprio in questa settimana, però, infatti, effettivamente, diciamo, dai, parliamo con... Non era lui, dai, Francesco. Questa era un po' poco attuale. Non ci stava. Chiudiamo con Ferruccio da Bergamo. Il riuso, però, adesso posso capire. Forse sì, c'era una battuta sotto che non abbiamo colto. Sì, va bene, sì. Ferruccio da Bergamo. Sì, eccomi. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Eccomi. Eccolo. Ci dica tutto. Tocca a lei. La vecchia lampadina ad incandescenza. Il personaggio della settimana, secondo lei, è la vecchia lampadina a incandescenza, perché sta sotto i riflettori, anzi sta, diciamo, sopra. La vogliono rimettere per l'illuminazione pubblica. Sì, perché viene progressivamente sostituita da altri tipi di illuminazione a LED. Più risparmiosi, si dice risparmiosi? Risparmievoli, ma sì, che garantiscono un maggiore risparmio. Esatto. No, ma dai, non era la lampadina. Non era, però siamo contenti bella questa, perché è bella avere come personaggio. Ma c'era la settimana una lampadina. C'era qualche notizia di questa settimana sulle lampadine che mi ero perso? Sì, l'ho sentita. Però non si ricorda quale. Va bene, grazie lo stesso. Mille. Allora, vogliamo aggiungere un indizio? No, dopo il traffico, vai. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, sono penso solo a te. Il volo, grande amore. Carlo, non asciugati la lacrimuccia, non piangere. Canzone. Mi emoziono sempre. Le emozioni, il volo che hanno vinto l'anno scorso, l'edizione di Sanremo, lo seguiremo naturalmente come tutti, come si fa a non seguire Sanremo. Ma sono anche quest'anno il volo? No, pensavo Sanremo. Ah, sì. No, sì, Sanremo, sì, il volo. Sì. Sai che Sanremo non lo so se, martedì, se stanno martedì, in Lizza. In Lizza, non credo. Emozione. Ci sono il volo in Lizza, adesso ci informiamo. Ma possiamo chiederlo anche a Fabrizio Ragazzi, che è un orchestrale dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Fabrizio, possiamo darci del tu? Assolutamente, certo. Del tu. Cioè, il volo sarà tra i concorrenti, che tu sappia? Allora, io quest'anno non partecipo. Non fai parte, sì, giusto, diciamo la verità. Lo sappiamo, l'abbiamo fatto apposta per introdurre l'argomento, dove tu infatti dicevi, che ne so io che non partecipo. Infatti, francamente non lo so, può darsi. Cioè, non sappiamo niente, il volo non sappiamo se partecipa. Fabrizio Ragazzi fa parte dell'orchestra, ma non sarà sul palco. Possiamo parlare dell'orchestra di Sanremo. Perché? Perché abbiamo letto i titoli di alcuni giornali e ci siamo preoccupati. Sanremo parte il festival, taglio allo stipendio degli orchestrali. Che succede? Sì. Questo è un problema aziendale che ormai veramente è di vecchia data. È un déjà vu, sono... direi, giusto? Un po' prima di tutti i Sanremi esce questa notizia. Mi spiace, non è che la stia sminuendo, perché in realtà poi si tratta del tuo lavoro, quindi ci mancherebbe altro. No, ma sembra fatto un po' apposta, probabilmente anche per dare più risalto alla notizia. Comunque è un problema di tutte le orchestre italiane, quello dei tagli ai finanziamenti pubblici, che sono sia nazionali e anche a livello locale, purtroppo. Però voi in particolare come orchestra di Sanremo, a cui noi siamo tutti particolarmente affezionati, perché probabilmente forse negli anni c'è stata una proliferazione di orchestre, forse adesso che stiamo tirando la cinghia bisogna fare un po' i conti e qualcuna di queste orchestre magari di paese possono anche subire dei tagli, però l'orchestra di Sanremo dice cavolo, è una delle eventi televisivi. Almeno 5 giorni all'anno lavorerà. Almeno 5. Sì, questo è un discorso un po', non è proprio così. In Italia le orchestre riconosciute dallo Stato sono soltanto 26, tra teatri dell'opera e orchestre sinfoniche. Beh, soltanto, Fabrizio, non è che siano pochissime 26, Non so, mi sento di dire. Allora, le faccio qualche numero, non so. Sì, sì, già non ci stiamo dando più del tuo, Adesso allora, sì, scusami, no, perché adesso pensando altre cose mi sfugge questa cosa del tuo. Anche perché per telefono non ci vediamo, quindi... Va bene. Comunque, ad esempio, in Cina sono circa 1 milione le orchestre riconosciute. Direi che l'esempio è molto preciso. 1 milione. Ma in Germania, in Francia, così ci facciamo un'idea? Germania adesso ne hanno tagliate parecchie, ne sono rimaste circa 300. Quindi, rispetto a prima, che erano più del doppio. Comunque noi quindi siamo a meno del 10%. Noi siamo uno degli stati che ha il minor numero di orchestre riconosciute, intendo, sì, perché certo. Sono quelle che si formano e si disfano così per l'occasione, però riconosciute vuol dire anche finanziate un po', se non sbaglio. Anche ovviamente vuol dire quello, vuol dire finanziate, perché un'orchestra oggi nella gestione nazionale è sempre stata finanziata da finanza pubblica, sì, dallo certo. Stato oppure dai comuni, dalle regioni. Oggi si cerca di portarla anche in un settore più privato. Ad esempio abbiamo l'esempio, ovviamente, quello della Scala, che è riuscita in questi anni a creare una differenziazione di entrate, per cui ha una specie di divisione del 33% per le tre voci che sono: una è quella del Ministero, una è quella della bigliettazione, vendita programmi, sì. E l'altra sono sponsor privati. La Scala è riuscita ad arrivare a questa autogestione, autofinanziamento, che è quasi completo, perché il 76% viene dalle proprie forze, dal privato, e soltanto il 33% dallo Stato. Dallo Stato. E questa, diventa una gestione dei conti, lo capisce chiunque, che è più sostenibile. Più... Assolutamente, ma io sono anche d'accordo che bisogna andare in quella direzione, però se lo Stato non nessun contributo. No, lo Stato, il contributo c'è, cioè il FUS, che però viene diviso sempre per maggior numero di persone, di enti. Il FUS è il Fondo Unico per lo Spettacolo, ricordiamo i nostri. Per lo spettacolo, sì. Però il problema è che lo Stato ha fatto diventare tutti questi enti delle fondazioni, quindi li ha resi privati praticamente, però non ha permesso al finanziatore privato di avere una detassazione completa del proprio finanziamento. Quindi, mentre per il cinema c'è, quindi io se finanzio un film... posso scalare dalle tasse tutto il mio finanziamento, il 100%, invece se lo faccio per le orchestre ho soltanto il 75%. Allora è ovvio che uno è spinto, no? L'imprenditore che vuole finanziare qualcosa di culturale va sul cinema piuttosto che sulla musica, capito? Certo. Sempre che non sia qualcosa di eclatante. Allora ecco che Sanremo sarebbe anche potuto entrare nel mondo delle orchestre finanziate dal privato se potesse al Festival di Sanremo magari mettere il proprio sponsor. E invece questo non è permesso, perché la RAI ovviamente gestisce il Festival in toto e non permette all'orchestra di avere nemmeno il suo nome, perché l'orchestra del Festival si chiama... Quindi bisogna mettere un po' a punto forse anche il rapporto con la RAI, Allora forse stiamo scoprendo anche un aspetto da questo punto di vista. Però è chiaro, il discorso si può allargare, come stava facendo Fabrizio, a tutte le altre orchestre, non ce ne vogliano. Siamo interessati a quella di Sanremo perché ci siamo particolarmente affezionati, pensiamo, certo. Forse sbagliando, che sia una eccellenza anche nella musica sinfonica italiana, proprio perché ha questo momento di grande ribalta. Che io sono qui da circa 15 anni in questa orchestra, ormai in pianta stabile, e devo dire che abbiamo avuto dei momenti buoni, è stata una buona orchestra, e purtroppo questi tagli continui ci hanno reso sempre più... ridotti come organico, quindi noi non siamo più una sinfonica, siamo un'orchestra a camera ormai, diventiamo sì. sinfonica solo periodicamente, però aggiungendo degli aggiunti di giovani. Ma il resto dell'anno vi esibite? Ci sono delle fate delle cose? Quello, sì, no, noi abbiamo la nostra programmazione annuale. Un Quanti concerti fa l'Orchestra Sinfonica di Sanremo durante l'anno? Ma, normalmente, diciamo, minimo sono 99, perché sono quelli necessari per il Ministero. Se non ne facciamo almeno 99, non prendiamo la nostra quota di FUS, diciamo, di fondo unico dello spettacolo. Beh, insomma, un buon numero. Si può lavorare sulla promozione, probabilmente sui biglietti, per rendere il tutto più sostenibile dal punto di vista dei conti. Noi vi facciamo un grande in bocca al lupo, ci godremo Sanremo. Tu, Fabrizio, non sarai sul palco, ci saranno i tuoi colleghi. Chi vince? Non sa nemmeno chi c'è, io forse. Spero che vinca l'orchestra, poi dopo <Vabbè. ride> ottimo, è un ottimo assist e l'hai buttata in rete. Grazie. Certo. Grazie mille. Neanche noi sappiamo in realtà chi è in lizza a Feste Sanremo, lo sapremo quando sarà il momento, saremo martedì, preparatissimi. Certo. Per adesso ci sono le primarie di Milano, poi un Milano, sono altre cose. Va bene, a questo punto abbiamo ancora una coda di alcuni minuti e vogliamo sentire un ascoltatore. Domenico da Varese, buongiorno. Buongiorno Ale, buongiorno Carlo, un piacere parlare con voi. Grazie. Anche per noi è un piacere parlare con te. Domenico, dici tutto. Allora, io ho pensato a Flavio Insinna, perché come sta sotto lui i riflettori in questo momento ce ne sono pochi, e la notizia sarebbe quella che ha regalato la sua barca a Medici Senza Frontiere, mi pare, e quindi che verrà riutilizzata per il soccorso ai profughi nel Mediterraneo. Eccolo qua. Ti abbiamo lasciato andare avanti perché questo silenzio era molto esaustivo. Stavi infilando una cosa dietro l'altra, tutta molto giusta, anche andando a toccare i nostri due indizi sotto i riflettori. Preciso, proprio, sì. E adesso ti chiediamo perché dici che nessuno meglio di Insinna sta sotto i riflettori? Beh, perché tra carabinieri, affari tuoi, è un bravo e a quanto si è dimostrato un buon personaggio, quindi giustissimo, che ha deciso di regalare la sua barca, o meglio di lasciare, no, beh, di regalare la sua barca a Medici Senza Frontiere, di modo che la possano riutilizzare. La notizia è molto buona. Tra l'altro ci siamo anche chiesti, perché ci chiedevamo come mai dire questa cosa, e lui stesso ha detto: io non volevo nemmeno comunicarla in giro. Questa per è una cosa importante, perché normalmente dei VIP fanno beneficenza si dice: ma perché ne hai fatto pubblicità? Lui ha detto: i miei amici mi hanno chiesto di dirlo, perché così può diventare un esempio virtuoso seguito da altre benestanti, da altri miliardari che magari Abramovic può regalare uno yacht ancora più grande. E ci è piaciuto molto questo, la nostra riunione di stamattina con il caffè di redazione per decidere il personaggio. Alla fine ha vinto giustamente Insinna, perché bella ci siamo detti, riunione. Ma un bel gesto. L'immagine bel della gesto. Riunione è raccontata bene, eravamo adesso lì travolti con gli occhi appiccicati col caffè in mano stamattina alle 7, e quella era la riunione. Adesso che è finita possiamo raccontare che è stata una riunione bellissima e tutto stupendo. Va bene, grazie Domenico, ti porti a casa i biglietti e il catalogo della mostra di Matisse a Torino. Qui, insomma, è anche raggiungibile facilmente da Varese. Noi ci fermiamo qua, salutiamo tutti, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, Claudia Schiattone, autrice, redattrice, assistente a tratti badante nostra, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta quest'oggi, Carmelo Rocella in regia. Che dire altro? Che dire? Basta, la lettera di cui parlavo, la mia lettera parlamentare, la trovate sul mio Facebook, oltre che sul sito di Vanity Fair. Ciao a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica e viva. E a chi ci ascolta in podcast.